Tenta. Se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 Mattino" di Alessandro Milan. Noi domenica giochiamo con la Roma e lo scudetto lo vinciamo a Roma, quindi per uno juventino testaccino questo era un gran momento di gioia. Gratulazione alla Roma per la bella stagione, bravo Spalletti. Un saluto a Totti per la sua leggendaria carriera e ti è piaciuta. Holly came from Miami, FLA. Presidente, hanno messo una palla in mano anche a lei, credo. Ma io sono esperto di palla, 10 anni di archeologia almeno mi hanno insegnato a usare la palla, quindi. Che situazione ha trovato qui a Tor Bellamone? Beh, basta che la guardate, questo è un parco davanti a una scuola dove abbiamo trovato sporcizia, rifiuti, siringhe, di tutto. Came from out on the island. In queste ultime ore anche un noto partito, il PD, quello che è responsabile del malgoverno degli ultimi 20 anni a Roma, ha deciso finalmente di venire a pulire, chiaramente per il noto principio secondo cui chi sporca pulisce. Take a walk on the wild side. Said hey babe, take a walk on the wild side and the cold girls go. Senta, intanto la sindaca di Roma Virginia Raggi ha postato un video in cui dice sostanzialmente chi ha sporcato in passato oggi pulisce. Sì, ma noi non abbiamo voglia di fare polemiche col sindaco, noi siamo qui a dare una mano, noi ci abbiamo appunto con la palla in mano a pulire e lei a fare i video, bene così. Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay and pay. Ciao ragazzi, la maglia te la mette, presidente? No, no, senza maglia. Se no sembra che faccia apposta per fare show. Facciamo vedere che ho lavorato loro. L'unico che non ha fatto la mazza sono io. Hey Joe, take a walk on the wild side. Ma è ovvio che dovesse finire così, in burletta. Dai, in burletta. Così. C'è i politici che non risolvono i problemi concreti delle persone, però poi così vanno con la ramazza a fare. E allora, visto che tutto in burletta, questa storia di pulire le strade con le magliettine gialle, allora ci sta anche il titolo di Libero, perché se tutto deve andare in burletta, tutto finisca in burletta. Titolo di Libero oggi. Giuro, prima pagina. Renzi e Boschi non scopano. Nel senso che non hanno preso ieri la ramazza, la pala, e non sono scesi per le strade a spazzare. Ecco. Cosa avevate pensato? Cosa avevate pensato? Boh. Signori, sono le 6:35 minuti, siamo entrati un po' in ritardo, c'è Paolo Corleone in regia, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, ci sono vari gradi che oggi non dico, tipo 18 a Cesena e 15 alla tangenziale est di Milano, a Stoccolma 5 gradi, ci ascoltano a Stoccolma, lo dico a qualcuno, ci ascoltano a Stoccolma. E vabbè, dai, i soliti gradi ovunque, ma voglio salutare subito il nostro amico Marione Adinolfi. Il tiro, rete! Che bel gol! L'ex rossonero e il Sharawi, questo è Nainggolan. Come stai, Marione? Sì, portate una spiga tremenda. Mi hanno telefonato venerdì, dicevo dai, vieni lunedì in trasmissione così celebriamo lo scudetto della Juve. Tac! Eccolo qua. Eccolo qua. Eri allo stadio, ovviamente. Eri allo stadio, ovviamente. Tu che hai detto vinceremo il tricolore a Roma. Che bello, Brutto proprio. Ma sai che, Marione, la macumba è brutta. È brutta. Sai che, Marione, ti dico una cosa. Guarda che non è che va benissimo, perché domenica o sabato, non lo so, ospitate il Crotone. Il Crotone, che è la squadra. Pure sul Crotone, dai, tu. è la squadra più in forma che c'è in questo momento, sta lottando per la salvezza. Se finisce tanto tanto con un pareggino, se non vinco lo scudetto ti vengo a cercare, capito? Ti vengo a Milano a cercare, cioè, non è che potete fare così, non è tutto, cioè. Se finisce con un pareggio tanto tanto, no, andate a meno 2. Sì, e poi che facciamo col Bologna? Col Bologna cosa Vabbè, col Bologna, Bologna. A Bologna però, a Bologna. Ah, ecco, ho capito, dove sono tutti gli juventini, peraltro, e notoriamente l'Emilia Romagna e il Biancoretto. Vabbè, effettivamente se l'ultima a Bologna è già fatto. Forse, su. Dai, però forse se tanto tanto un pareggino col Crotone. C'è la Coppa Italia mercoledì, vedi di farsi una passeggiata, Pira. Signori, okay. È l'anno del triplete, ecco, si sa, è l'anno del triplete. Sono emozioni bellissime che per esempio ha provato insieme a Maria Dinolfi quest'anno con un grande triplete anche Silvia Brasca, lei dell'Inter, lei che meno male che c'è l'Inter, signori. Silvia Brasca, certo. Buongiorno. Triplete, buongiorno. Te lo ricordi? Roma, il la finale di Coppa Italia, Roma Madrid, Barcellona. Sono stato da Abu Dhabi per l'Intercontinentale. Sono bei ricordi. Comunque, sai, i triplete si vincono anche al secondo tempo dell'ultima partita di campionato. Quindi, di inoltre, per soffrire ancora. Sì. Io la vedo così, col Crotone, un pareggino e poi avete pareggiato all'ultimo minuto con l'Atalanta, no? State lì che soffrite per prendere i posti in Europa League. Soffriamo, forse, capito? Soffriamo. Noi siamo nella nostra posizione naturale, dove siamo costruiti per il sesto posto. E dobbiamo sentire, capito? È che lui, Mira. Silvia, è andato lì all'Olimpico dicendo, come ha detto, come abbiamo sentito in apertura di trasmissione lunedì scorso: vado lì, vinco, bravi Totti, Spalletti. Sì, anche mercoledì e pensava di uscire con lo scudetto. Mercoledì bisogna stare attenti perché la Lazio ha regalato un triplete all'Inter, lo posso dire da interista. È triplete, ma non lo può regalare due volte, i triplete non si regalano. È triplete della è triplete. Bravi. Vai anche a Cardiff? Hai già il biglietto? Hai già il biglietto per Cardiff? Adesso vediamo che succede mercoledì, dopodiché mi devo organizzare qualcosa se fa male mercoledì. Ma come se va male? Vai o no? Non vado a Cardiff, vado a Milano, capito? Sede di Radio 24, non vado a Milano a Cardiff. Al mattino presto. Senti, giovedì mi sa che sei già invitato, vedi un po' te. No. Vedi un po' te. Allora, signori, apriamo il Parlamento. Qua... Allora, ragazzi, se uno esce per prendere un caffè e gli state sopra i giornali raccontano ancora di Banca Etruria, ragazzi. Questa, vabbè, adesso ne parliamo di Banca Etruria. No, parliamone subito, dai, Banca Etruria. Allora, la questione è che adesso, ma siamo alla disfida delle dichiarazioni. Adesso forse arriva la 61esima commissione parlamentare. Giuro, ce ne sono 60, oggi ne conta il giorno. 61esima sulla Banca Etruria. Com'era, Marione, quella storia che in Italia per affossare un problema ci vuole una bella commissione elettorale? Esatto, una commissione parlamentare, sì. La commissione parlamentare è la prova che non puoi trovare la soluzione al problema. Ma parlasse sto Ghizzoni, parlasse una volta buona. Lui dice: parlerò in Parlamento se mi chiamano. Almeno sappiamo le cose come sono andate. Mi sa che i tempi si allungano e la cosa si smuscia, dai, insomma, questo è ormai chiaro. È chiaro, è così, e finisce tutto. Ci dimenticheremo di tutto, come di Consip, non parliamo più di Consip, che è un'altra strepitosa inchiesta. L'italiano ha la memoria corta, poi c'è la finale di Champions. c'è la finale, vabbè, ma Silvia, ma qua si butta tutto in vacca, insomma. Purtroppo è così. Sì. Comunque di Cosip se ne riparlerà, secondo me, sì, perché è in mano comunque a un PM serio che è Paolo Ielo. E Ghizzoni c'è stato un weekend movimentato del Piacentino, perché comunque sabato invece il Corriere, no, ieri aveva il Corriere qualche parola. Sì, oggi Repubblica. No, i più contenti, oggi, secondo me, sono i gestori di trattoria in Val Trebbia, dove ci sono tutti i giornalisti in questo momento. In Val Trebbia. Tu la conosci, Mario, la Val Trebbia? Bella la Val Trebbia, mangia bene. Si mangia bene. Viva i colleghi che stanno in trattoria. E quindi tutti lì a casa Ghizzoni per cercare di capire, di strappare una battuta. Non so, tu Silvia anche pensi che finirà un po', che tutto diventerà un po' più confuso, un po' più lungo? Beh, un po' i tempi più... appunto, i tempi come se si allungano, però no, qua è una bella battaglia, insomma, sulle banche non si scherza. Adesso non c'è ancora un tema che è capace di spazzarla via, non c'è la maglietta gialla, no? Che la sta spazzando ancora lì sul piatto. Sì. Certo che è stata una bella operazione di marketing. No, politicamente certo se ne parlerà ancora. Questo sì. Con buona pace di Marione, altro che tutto stanco. Se gli italiani si annoiano, non hanno capacità di attenzione per lungo periodo. Diciamo, se già si è ammata la cosa, cioè adesso va Pizzoni, chi posto che niente, basta, non ti piace sta cosa, perché non sei sceso a spazzare anche tu la strada sotto casa con la maglietta gialla? Non c'era quella della prima famiglia, non riuscivano a produrla. Vabbè, potevi andare con la maglietta bianca, ma chi se frega. Sì, dice, era uguale, insomma, con Orfini, che nel primo giorno di lavoro in vita sua, insomma, vabbè. Primo giorno in cui ha lavorato in vita sua. Beh, effettivamente Orfini non mi dà l'idea di uno, però lascia stare, è un fratello. Ti do lavorato un giorno in vita sua, adesso ha zappa in mano. Ti do una notizia, Matteo Orfini è un grandissimo tifoso milanista, quindi lascia perdere, è un fratello rossonero. Quindi non. No, però l'ha fatto, ha giocato a biliardino, alla PlayStation, adesso ha zappa in mano. Questo è il curriculum di lavoro, sì, andate a guardare, ha mai fatto un giorno di lavoro vero? Mai. Vabbè, ho capito, ma di che vuoi parlare allora? Queste sono le note, vuoi dirmi di Bossi che lascia la Lega, Salvini? Le primarie della Lega erano divertenti, ha preso l'82%. Sì, un plebiscito. Cioè, Bossi è il Bersani di Salvini. Bossi è il Bersani, dimmi, metti un po' di ordine te. Perché, No, devi mettere un po' di ordine te. Perché c'è l'intervista di Bossi oggi al Corriere? E c'è una frase che non ho capito. Vediamo. E dice, Salvini è la brutta copia di Renzi, sono tutti e due uguali, per loro la soluzione è prima il mio C, puntini, puntini. E in ogni caso annuncia Bossi, io non mollo. Che cosa sarà prima il mio C? Non lo so, io puntini. Io ho qualche idea. Dipende dai puntini, Brasca, conta i puntini e capisci. Se sono tre è una cosa, se sono quattro è un'altra. ma tre l'italiano, l'italiano dice che i puntini sono tre. Lo so, ma in questo caso sono tre? Se sono tre, se ne ha messi sono quattro. Tre, però. Allora dai, è quello. Allora è quello più citabile, ecco, dai. Ecco, prima il mio C. Vabbè, ma adesso qua, anche Roberto. Bossi che lascia la Lega. Adesso, politicamente, diciamo una cosa seria. Dai, Marione, dici qualcosa di serio. Bossi che lascia la Lega. Quello che ho detto è interessante, no? Lo schema per cui ogni Matteo ha il suo vecchio che si cavola e se ne va. Questa è una dinamica abbastanza forte. Cioè in realtà, se voi studiate negli ultimi anni, la politica ha fatto un vero reale cambio salto generazionale. È interessante questo, perché oggi i leader sono Di Maio, Di Battista, Meloni, Salvini, Renzi. L'unico che veramente regge è Silvio Berlusconi, ottuagenario. Sì. Questo perché c'ha i soldi, perché c'ha la grana. Cioè questo è, non so, uno schema molto interessante da studiare. No, effettivamente i giovani, cioè una nuova generazione di politici che poi magari sono persone che abbiamo già visto da un po', perché anche la Meloni non è di primo pelo, Salvini non è di primo pelo, cioè non sono nuovissimi, forse a parte 5 Stelle. Però la cosa interessante è che i vecchi non ci stanno, capito? Invece di restare a fare i padri nobili, come succedeva una volta, sono vecchi che si sentono rottamati e se ne vanno, fondano i partiti concorrenti con rabbia, i D'Alema, i Bersani, i Bossi. Ma questa è una dinamica molto interessante, nuova per certi versi rispetto al panorama politico anche internazionale. Sì. Cioè, non è che adesso se Schulz perde in Germania adesso nasce la SPD di quello che ha fatto fuori, che mi ricordo che era il candidato precedente rispetto a Schulz. Ci stanno dentro le dinamiche di ricambio delle classi dirigenti. Da noi la classe dirigente ricambiata pure a 80 anni non ci sta, e si fa il partito suo, che è abbastanza surreale. Si facciamo il partito loro. Comunque la gioventù avanza, ma dai, ma adesso io voglio dire, può fare quello che vuole Bossi, magari qualcun altro insieme a Bossi, magari Fava, che è quello che ha contrastato Salvini e ha perso, non lo so, però insomma dinamiche politiche che ci anche, sono. Ma anche Maroni è vecchia guardia e non era contento, di Salvini, è vero. Però dopo il traffico io vi voglio chiedere anche una cosa, torna tutto in Italia, torna tutto. Adesso cosa si sono inventati? C'era la radunata degli alpini. Cosa si sono inventati? Torni il servizio civile, tra poco. E vai col traffico! Gondrand Arte e Fiere, i professionisti per le vostre esposizioni. Scopri di più su gondrand.it. Vi presenta... Mattino. Da quando ho letto che De Bortoli è un comunista folgorato sulla via di Damasco, non credo più in tutto quello che dice. Sai qual è lo stilista di moda che va di più adesso al governo? Massoni. Milanna, se non mandi questo mio messaggio, ne so anni che ascolto Radio 24, non ti ascolto più la mattina, ci siamo stufati, un appello ai nostri politici. Le strade, non si cammina più, sono piene di buche, avvallamenti, fosse, immondizie dappertutto, non solo a Roma, sulle strade provinciali, gli alberi che ti vengono addosso sulle strade provinciali, non ce la facciamo più. Uè Milan, pauscia! No, sì, i bravi vanno via. Guardi, l'anno scorso. E quei meno bravi che vogliono mangiare lo spaghetto la domenica con la mamma. Ma torniamo lì. Niente, ormai Briatore che ha scritto un libro sulla ricchezza e poi si arrabbia quando gli chiedono se esistono i ricchi a Monte Carlo, come ha fatto Pardo. Ogni giorno dà queste sue perle di saggezza ovunque. I bravini, tu vuoi mangiare lo spaghettino, Marione? Con la mamma, sì, ieri l'altro ho mangiato lo spaghettino con la mamma. Va bene, la spaghettino, fatto proprio quello. Mezzo chilo magari di spaghetti con la mamma. E vabbè, il Briatore si lancia così. Non posso chiedere a Silvia Brasca se ha fatto il militare. Però se vuoi te lo chiedo comunque, insomma. Però no, ho ricordo, sono abbastanza vecchia per avere ricordo di che cos'era. I miei amici, noi ragazzi andavamo avanti a studiare, loro hanno quest'incubo, il militare, impensabile adesso. Torna tu Marione, che dici? Come riformato per prole, che vuol dire per prole? Vuol dire che ero l'unico mezzo di sostentamento della mia famiglia da giovanissimo a una bambina, quindi insomma, riformato per prole. Ero papà. Vabbè, adesso c'è questa storia del torni in servizio civile almeno, obbligatorio. C'era la dunata e quindi la Pinotti. Valutiamo il servizio civile obbligatorio. Ti piace questa cosa? Ho visto il titolo in prima pagina sul Corriere della Sera su Valutiamo. In Italia valutiamo se ne parla fra 12 anni. Sì, cosa... vabbè. Titolo in prima pagina sul Corriere della Sera su Valutiamo. Ma dai, per cortesia. C'erano i numeri del servizio civile, quello che ha pulsato adesso, dove sono dei numeri interessanti, che un numero insomma importante di ragazzi è stato confermato lavoro poi negli enti, insomma nelle cose che hanno fatto il servizio civile, cioè è servito in realtà come traghettatore verso un lavoro. Probabilmente anche sull'onda di quei dati che so può aver detto, cioè, è una cosa impegnativa. Il servizio civile obbligatorio è impegnativo metterlo in pratica, nobile nell'aspirazione, ma insomma mi sembra un po' Lontano. Vabbè, ma per Marione niente, tutto quello che c'è sui giornali oggi è so chiacchiere. Abbiamo un po' di esperienza su, chiacchiere distintivo. Quanto ci vuole a fare una legge sul servizio civile obbligatorio? No, ma è chiaro, che sono dichiarazioni fatte alla donata degli alpini. È il nulla, proprio è lo zero. Si sa cosa scorre a fiume alle donate degli alpini, però non è che la Pinotti si è bevuto una grolla prima di quello no, però insomma non c'è niente. Vabbè, Barione, allora ti sei calmato un po' con Macron? Ti sei fermato? Ti stai guardando proprio le figurine in prima pagina, devi trovare una notizia. È una tragedia. Piace l'abitino di Brigitte, di nonna Brigitte, no, ti piace l'abitino? Nonna Brigitte, ce l'hai data di nonna, cioè sei veramente... una cosa pazzesca. Se vuoi veramente. Allora guarda, no, sei veramente out con sta roba della nonna Brigitte. Allora, visto che c'era anche Giachetti a ramazzare, non posso dire a scopare perché sennò poi a libero si mettono in mente delle robe. Dai, facciamo il premio Giachetti, dai, così facciamo il premio Giachetti. Su. Hai la faccia come il culo. Rispolveriamolo. Faccia come il culo. Il premio Giachetti, che puoi assegnare, caro Mariona Di Nolfi, a chi vuoi. Dai, Orfini oggi, studiamo Orfini con la manga in mano, una fotografia iconica del Duce che falcia, che trebbia il grano. Dai. No, ma come Duce? No, dai, Orfini, Duce, no. Fa ridere, appunto. Non si può. Questa immagine del politico che lavora con lo strumento per eccellenza della povera gente, lo trovo così sconclusionatamente umoristico che veramente il premio Giachetti ci sta tutto a Orfini. Tu, poi anche a Macron con la vecchia, però volevo essere più politicamente eccolo lì, subito lo twitto, subito faccio passare una bellissima giornata anche oggi. Vai. Tu, Silvietta, chi dai il premio Giachetti? Di Battista con i vaccini gratuiti. Oh, Di Battista con i vaccini gratuiti, sempre col 5 Stelle. Va bene, dai, vi devo lasciare qui con Silvia Brasca del TG La 7 e Marione Adinolfi. Sta attento, Marione, che ho scoperto che anche il Napoli è meno 5. Potreste arrivare terzi addirittura. Manco secondo terzi. Incredibile, terzi. Stai attento al Crotone. Dai, ciao, alla prossima. La zappa ci vuole, la zappa da 7 chi. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Sono le 7:20 minuti, siamo qui per la rassegna stampa di 24 mattino. Sì, questo lo sapete, lo spazio in cui leggiamo i giornali che trovate in edicola. Oggi c'è Paolo Corleoni in regia. Come mai la donata degli alpini è finita? È finita da un bel po' anche. Ah, si deve riprendere. E da che cosa? Era una adunata degli alpini a camomilla, questa l'aveva promesso Peter Bescapè, il nostro alpino. Vabbè, chi lo sa, avrà la bua al pancino. Insieme a Lorenzo Nespoli in redazione andiamo, caro Paolo! Non c'è niente di più divertente che commentare i giornali, ragazzi. Siamo arrivati a lunedì 15 maggio, intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore, commercialisti, dentisti, avvocati, ecco le città con più professionisti. È una classifica, nel senso che volete sapere la città con più commercialisti, con più architetti, ragionieri, avvocati. Ebbene, trovate tutto nell'inchiesta del Sole 24 Ore in prima pagina, questo è il titolo principale. Poi le aperture dei vari quotidiani sono dedicate molto all'attualità dagli esteri. Intanto la Germania, la corsa di Merkel per la sinistra, una sconfitta shock. Il titolo di apertura del Corriere della Sera, la pesante sconfitta elettorale per la SPD nel Nord Reno-Vestfalia, land più popoloso della Germania, ha perso. Martin Schulz è il titolo anche del Messaggero. Merkel travolge i rivali socialisti con il voto in Nord Reno-Vestfalia. La Stampa invece, Merkel-Macron, vertice per la nuova Unione Europea, oggi il faccia a faccia, il giorno anche in cui si è insediato all'Eliseo Macron. Repubblica invece, il caso ancora Etruria, banche, parla Ghizzoni, in realtà è un titolo un po' così fuorviante, non ha parlato. Etruria, un caso politico. In realtà parla Ghizzoni per dire non parlo, parlerò se convocato in Parlamento dalla commissione d'inchiesta. Anche il giornale ha un titolo così un po' forzato, Bossi lascia la Lega. In realtà, dopo il trionfo alle primarie di Salvini con l'82% nella Lega, il senatore sbatte la porta e medita di lasciare, ma non ha ancora lasciato. Per il Fatto Quotidiano, Renzi come Berlusconi, ramazza e bugie per ripulirsi da Etruria e Consip. Questo è il titolo sull'iniziativa degli uomini del PD che in maglietta gialla sono andati a pulire, a spazzare le vie di Roma. Su questo arrivo al titolo di Libero, ne hanno combinato un'altra, con un vaghissimo doppio senso. Il titolo di prima pagina di Libero sulle magliette gialle del PD a pulire le strade di Roma, Renzi e Boschi non scopano, a tutta pagina. Ovviamente non pensate, cosa stavate pensando? Perché non hanno preso la ramazza Renzi e Boschi per ieri scendere in strada e pulire le strade di Roma, mentre invece gli altri Dem invece lo fanno, sottotitolo di Libero. Va bene, allora noi torneremo anche ad approfondire la questione dei divorzi, perché giustamente oggi il Sole 24 Ore fa un po' di calcoli sulla base dell'Istat, sulla base dei dati anche delle statistiche della finanza, sulle dichiarazioni dei redditi. Quanti sono gli assegni all'ex che potrebbero essere rivisti dopo la ormai diventata celebre sentenza della Cassazione che ha detto che non bisogna più dare l'assegno all'ex in base al tenore di vita precedente, ma in base al fatto, anche calcolando se l'ex ora lavora oppure no. Ebbene, gli assegni all'ex in cerca di revisione, la possibilità di correzione per 137.000, è però determinante la mancanza di mezzi dell'assistito. Dopo la sentenza, questo scrivono Cristiano Dell'Oste e Bianca Lucia Mazzei a pagina 5 del Sole, dopo la sentenza della Cassazione, quanti sono gli italiani che potrebbero invocare una revisione dell'assegno periodico pagato all'ex coniuge? Una prima indicazione, ma non è definitiva, arriva dalle statistiche delle finanze sulla dichiarazione dei redditi. Nei modelli unico 730 del 2016 i contribuenti che hanno scalato dal reddito l'assegno versato sono stati quasi 137.000, il 22% in più rispetto all'anno imposta 2008. Nello stesso periodo invece l'importo medio è sceso del 4,8% a parità di potere d'acquisto, passando da 6.712 euro a 6.390 euro. Ovviamente però ci sono tutti i criteri spiegati per la revisione. I giudici dovranno valutare esclusivamente la mancanza di mezzi adeguati e l'impossibilità di procurarseli basandosi su elementi che vanno dalla presenza di altri redditi alla capacità lavorativa. E solo se il diritto all'assegno supererà questo esame, si passerà alla quantificazione del versamento, in cui il principio guida è quello della solidarietà economica. Sull'importo peserà dunque il contributo di ciascuno alla conduzione familiare e al patrimonio, oltre che al reddito di entrambi e la durata del matrimonio. Però 137.000 potrebbero essere gli assegni da rivedere. Ne parleremo più avanti, avremo l'avvocato Giulia Bongiorno, ospite ai nostri microfoni. Intanto, se vogliamo vedere alcune notizie di cronaca, partirei da questa. Oh, il G7 a Taormina forse riesce a bloccare gli sbarchi dei migranti. Non sembra una battuta, a me appare abbastanza una battuta, in realtà è abbastanza così, perché la direttiva firmata dal capo della polizia Franco Gabrielli, diramata già da qualche giorno per pianificare i servizi necessari a proteggere i capi di Stato e di Governo che si riuniranno a Taormina per 2 giorni, prevede proprio questo. Come scrivono il Corriere della Sera e il Messaggero, sbarchi vietati per il G7. È una Sicilia che per 2 giorni sarà blindata. Per una settimana sulle coste siciliane, racconta Fiorenza Sarzanini, su una pagina 11 del Corriere, niente approdi per i migranti. Ma come? Cioè, arriva il G7, i potenti, niente approdi per i migranti. E che succede? Abbiamo trovato il sistema per fermare gli sbarchi dei migranti? Fare un G7 ogni 2-3 giorni? Ovviamente questa è una battuta, ma il 26 maggio è previsto il G7 a Taormina. Le misure di sicurezza, racconta Fiorenza Sarzanini, sono già operative già da questa mattina. Da lunedì prossimo tutti i porti siciliani saranno interdetti. Messa così, tutti i porti siciliani, ma come, uno vuole fare una vacanza? Non lo sapevate? Non lo so, leggete oggi i giornali. Pare tutti i porti siciliani interdetti, anche interdetti, cioè nessuna nave potrà avvicinarsi, anche le imbarcazioni cariche dei migranti che già affollano il Mediterraneo centrale dovranno attraccare altrove. Insomma, così. Messaggero, G7, stop sbarchi in Sicilia, c'è un piano anche anti-hacker. Vabbè, questo è abbastanza prevedibile. Mentre oggi voglio segnalarvi queste due pagine della Stampa, molto belle, molto intense. C'è anche un intervento del nostro Gianluca Nicoletti che parla del figlio Tommy, autistico. Perché sono due belle pagine? Perché Andrea Malaguti racconta il fallimento del dopo di noi, la legge dopo di noi. È la legge che doveva cambiare tutto, come racconta Andrea Malaguti, e che apparentemente non ha cambiato nulla. Eppure nel maggio 2016, quando la prima normativa organica sul dopo di noi fu licenziata dalla Camera, al governo era tutto un darsi di gomito. Avete visto, pensiamo ai più deboli. Bello, o piuttosto balle, perché i più deboli non se ne sono accorti. La legge dopo di noi, che ha al suo perno l'istituto del trust ed è volta a favorire il benessere, la piena inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità, garantendo loro la massima autonomia, l'indipendenza, consentendo di continuare a vivere nelle proprie case, in strutture gestite da associazioni, evitando dunque il ricorso all'assistenza sanitaria. Bene, tutto questo, racconta Andrea Malaguti in questa inchiesta molto ben dettagliata, piena di numeri, e pare che sia una legge rimasta sulla carta. Siamo gli unici genitori del mondo a sperare che i figli non ci sopravvivano, dice per esempio Lucia Viggiano, mamma napoletana di una meravigliosa disabile grave, Francesca. È una dei circa 300.000 genitori italiani che spendono l'esistenza di fianco a figli che si limitano ad abitare corpi destinati a diventare un orpello, adulti con la testa ricca e incompleta di bambini. Persone dunque che vanno gestite, lavate, nutrite, accompagnate, seguite, curate 24 ore al giorno. Esseri umani che, stando alla relazione presentata al Senato nell'aprile 2016 dal presidente dell'Istat Alleva, vedranno in futuro aumentare il rischio di esclusione e marginazione se la società non sarà in grado di fornire loro supporto di cure e autonomia economica rassicurata da attualmente dalla rete familiare. Ebbene, c'è questa legge, pare che questa legge non funzioni, almeno le storie sono raccontate da Andrea Malaguti sulla Stampa, ripeto, c'è anche un intervento del nostro Gianluca Nicoletti, e da questa inchiesta si evince che c'è ancora moltissimo da fare in questo campo. Ma eccoci qui, è l'articolo che mi fa pensare della giornata, è una vicenda di cronaca di cui hanno parlato i giornali nei giorni scorsi. Oggi torna Il Giorno su questa vicenda con Nicola Palma, urla ai ragazzini basta fare chiasso, in particolare uno che usava il motorino a una certa ora di notte, e il branco di ragazzini lo aggredisce a ombrellate, questo signore marino, 56 anni, impiegato in questo momento, è in coma farmacologico e succede nella periferia di Milano. Ma signora, ma che fa? Metta le mani sul volante, signora, ma andiamo, per cortesia. State ascoltando un programma offerto da Made in Steel, l'acciaio mondiale si incontra a Fiera Milano dal 17 al 19 maggio. Ma se ci pensi, mo l'Alessandro Milan è un po' la legge elettorale dell'informazione, beh. Caro ascoltatore, io lo so che tu volevi insultarmi così, e va bene, Accetto. Allora, bella come sigla, dai, la rimetteremo. Allora, signori, dobbiamo parlare ancora del caso Etruria, perché tiene banco sui giornali. Oggi Repubblica ha questo titolo che, se uno legge in prima pagina, dice parla Ghizzoni, banche, parla Ghizzoni. In realtà parla Ghizzoni per dire non parlo. Questo in estrema sintesi. Ghizzoni e l'affare Etruria, un problema dei politici, lo risolvano loro, non io. In Parlamento dirò tutto. Andrea Greco, inviato di Repubblica, pagina 6 e 7, a Scrivellano, provincia di Piacenza, che diventa in questo momento, in questi giorni, un po' il cuore dell'Italia, per cercare di strappare qualche parola al piacentino Ghizzoni. Ebbene, Andrea Greco racconta: se mi convocheranno parlerò alla commissione d'inchiesta, in Parlamento, non sui giornali, risponderò ovviamente a tutte le domande che mi faranno. Dunque il muro del no comment regge, ma un forellino per guardarci attraverso si nota. Federico Ghizzoni, banchiere più inseguito d'Italia, dribbla i tanti giornalisti venuti a aspettarlo sotto la casa di campagna, ma chi insiste di più fa capire meglio il suo stato d'animo. Quando il campo sarà sgombro dalle strumentalizzazioni mediatiche che a ore alterne lo vogliono ariete dell'opposizione o parafulmine del governo, darà il suo contributo di cittadino, perché si chiariscano i rapporti tra la maggioranza, la sua icona Maria Elena Boschi e la banca dell'Etruria. Ora non parlo, perché non si può mettere in mano a un privato cittadino la responsabilità della tenuta di un governo, si è sfogato Ghizzoni dopo il pranzo domenicale. È un caso della politica, sarebbe dovere e responsabilità della politica risolverlo. Qualsiasi cosa dicessi ora sarebbe strumentalizzata da una parte politica contro l'altra e contro di me. Oltre poi al fatto che, quando studiavo da banchiere, mi hanno insegnato che la riservatezza è una virtù. E vabbè, altre frasi così. Anch'io sono una anche se sono una persona emotiva, in questi giorni la pressione mediatica su me e la mia famiglia è notevole, mi sento assolutamente sereno. Se mi convocheranno in commissione, sono disposto a rispondere a tutte le domande. Ho letto che partirà presto la commissione, mi auguro che sia vero. Ecco, appunto, c'è questa storia della commissione d'inchiesta, che è ciò che ha detto anche Renzi ieri all'Arena di Giletti. Com'è quella storia che, quando in Italia non si vuole affrontare un problema, si fa una bella commissione d'inchiesta e via? E se no, non dobbiamo essere così pessimisti, ma comunque Renzi aveva attaccato De Bortoli sul Foglio, dicendo: lui è ossessionato da me, voleva andare in Rai. De Bortoli ha risposto: io non volevo assolutamente andare in Rai, ho rifiutato due volte. Ieri ancora Renzi ha attaccato, dicendo: ha fatto De Bortoli una bellissima operazione di marketing per il suo libro, gli auguro di vendere tante copie. E vabbè, insomma, le schermaglie continuano giorno dopo giorno. In tutto, sulla vicenda Etruria, forse l'articolo più interessante è ancora sulla Stampa. Così, nel consiglio di amministrazione fu stoppata la fusione Etruria Banca Popolare dell'Emilia Romagna. Questo è il titolo di pagina 8, racconta con Gianluca Paolucci, che ha tirato fuori questa storia di qualche giorno fa. Furono due consiglieri della Popolare Emilia-Romagna, vicini all'ex premier Romano Prodi, a opporsi alla fusione tra BPR e Etruria. Una ricostruzione che dimostra come Etruria fosse diventata un terreno di scontro ben prima della sua risoluzione, uno scontro politico, istituzionale e finanziario. Esacerbato poi dalla presenza in consiglio di Pierluigi Boschi, padre di Maria Elena Boschi. Questo era la piccola banca Etruria, i cui attivi valevano circa lo 0,4% del sistema bancario nazionale, fin dalle convulse settimane che precedettero il suo commissariamento a febbraio 2015. Uno scontro sotto traccia che deflagrerà poi dopo la risoluzione delle quattro banche. E a riferire questo episodio è un testimone diretto delle vicende. Fine 2014, Ettore Caselli, allora presidente di Banca Popolare Emilia Romagna, capeggiava il fronte che nel suo istituto avrebbe visto con favore un'integrazione con Etruria. Deve però fronteggiare la freddezza delle strutture e lo scetticismo di una parte del Consiglio, soprattutto la ferma opposizione di due consiglieri, Angelo Tantazzi e Giuseppe Lusignani, entrambi vicini a Prodi e influenti per competenza nel Consiglio della Popolare dell'Emilia. sia per competenze che per storia personale. Ecco, questa è la ricostruzione della stampa. In tutto, appunto, non l'ho detto io, eh. Volete una bella commissione elettorale? Leggete pagina 4 e 5 del Giorno, commissioni palude in Parlamento. La politica Moloch. Sapete quante commissioni tra permanenti, speciali o d'inchiesta in questo momento ci sono? 60. Scrive Giovanni Rossi sul Giorno. La politica è anche questo, una moltiplicazione di poltrone che spesso non porta risultati concreti e pecca in trasparenza. Come spiega Open Polis, non ci sono dati uniformi su presenze, votazioni, lavoro svolto, documenti prodotti. Il lavoro certo invece non è gratis, un presidente di commissione guadagna 1.270 euro al mese in più come parlamentare. E va bene, facciamo un'altra commissione d'inchiesta sul caso Banche, sul caso Etruria. Auguri. In tutto Salvini invece ha ottenuto l'82,7% nelle primarie della Lega, ma racconta a tutti i giornali ormai è rischio scissione, anche perché un'altra scissione dopo quella del Partito Democratico, dopo che Salvini tra l'altro ha detto chiunque dica qualcosa fuori posto si accomodi fuori dalla porta, poi ha aggiunto no, io non voglio cacciare nessuno, ma il concetto di Salvini è stato molto recepito da Umberto Bossi. Tutti guardano a lui, il giornale titola addirittura Bossi lascia la Lega. In realtà c'è un'intervista di Paolo Bracalini a Bossi, non è proprio che ha già lasciato la Lega, ma evidentemente, come si legge a pagina 3, sta meditando molto questo passo, perché Umberto Bossi dice: Salvini è la brutta copia di Renzi. Anche per lui prima il mio culo vale. Se vince lui, la Lega è finita. Questo Umberto Bossi. E allora lei che fa? Valuterò la situazione. Valuterò la situazione. E poi Bossi in questa intervista parla a lungo e male di Salvini. Non c'entra niente l'immigrazione. Gli ho fatto notare che al sud non frega niente degli immigrati perché sbarcano ma vengono al nord. Salvini va a sbattere. Renzi parlava di posti di lavoro, sono fallite 100.000 aziende, quasi tutte al nord. Difende l'euro dicendo non è colpa dell'euro. Insomma, sembra un Bossi che parla proprio da quasi fuoriuscito dalla Lega. Va bene, signori, comunque se è lunedì e quindi per voi si prospetta una settimana pesante, sappiate sempre che potete dire meno male che c'è l'Inter, che è una cosa che almeno uno dice... Oh, Lirola, attenzione, cioè, sfonda a destra, possibilità per lui, Iemmelo! Oh. Ha raddoppiato il Sassuolo. Dice, è dura, però meno male che c'è l'Inter. Mauro Meazza, buongiorno, come stai? Tutto bene? Buongiorno, no, sto benissimo, perché vedo che però i giornali non riportano il fatto che il virus WannaCry ha colpito anche i tifosi di San Siro. Sai che WannaCry significa in inglese voglio piangere. E quindi ha colpito anche ieri, insomma, San Siro. E volevo dirti, non è che però a Bergamo abbiamo visto cose mirabolanti, no. Ecco. No, comunque, no. Meno male che è lunedì, caro Alessandro, meno male, perché, sì. Perché così, a parte che il campionato ce lo siamo lasciati ormai alle spalle, ma soprattutto c'è il Sole 24 Ore. Oh. Il Sole 24 Ore, già hai ricordato doverosamente il nostro lavoro sugli assegni divorzili. Bene hai fatto, ma c'è come sempre il lunedì e ci sono come sempre anche gli endecasillabi del lunedì. Ottimo. Quindi meno male per tutti questi motivi che è lunedì. E vado a leggere gli endecasillabi. Declami. Beh, insomma, declamo, leggo come posso. Quali colombi dal disio chiamati, oppure da richieste dei clienti, si muovono i dentisti e gli avvocati come i commercialisti e i consulenti. E il Sole d'oggi ti fa il paragone tra il dato di ora e il prima della crisi, spiegando come sta nella nazione tutti i professionisti suddivisi. Potrai poscia trovar sul nostro sito ancor più dati per lo tuo sapere. Ti basterà cliccare con il dito e altre rilevazioni potrai vedere. Il confrontarsi è ben su vizi e doti. Perciò il 24 ore ti bilancia, prima che da Bruxelles si diano i voti, l'IDEF della Germania, Spagna e Francia. Poi, come sempre, avranno soddisfazioni gli appassionati in tasse ed in diritto, che degli esperti nelle loro sezioni apprenderanno l'odire, giusto e fitto. Lo stesso non potranno certo dire di miliardari dello calcio asiatico. Giunser con tanti soldi da stupire, or son stupiti loro. Vai col traffico! Gondrand, il trasloco internazionale per la tua azienda è in mani sicure. Gondrand.it vi presenta Alessandro Milan, due spalle rubate all'agricoltura. Ok, cari ascoltatori, allora c'è molto di cronaca, la vicenda che è finita un po' in burletta, dai, parliamoci chiaro, della questione delle ramazze per pulire Roma da parte degli esponenti del PD. Il sindaco di Roma Virginia Raggi che risponde: è certo, puliscono dopo perché sono loro che hanno sporcato. Il cittadino comune, ma mettetevi nei panni del cittadino comune che vede la politica affrontare con questi battibecchi un problema serio che c'è, che è quello della gestione dei rifiuti. Cosa deve pensare il cittadino comune? Ecco, per questo io dico che non mi sento di, burletta per burletta, di condannare il titolo di prima pagina di Libero. Renzi e Boschi non scopano. Titolo a caratteri cubitali. Ovviamente si parla di ramazze, perché loro non hanno preso le pale, le ramazze. Mentre gli altri Dem lo fanno. Ovviamente si parla sempre di pulire le strade. Perché burletta per burletta ci sta anche il titolo burletta. O no? Vabbè, quelli di Libero sono un po' dei satanassi, si sa. No, non è la prima volta, la ricordate, la patata bollente, i doppi sensi, eccetera. Però, ecco, questo è il dato di fatto. Trovate comunque molto del PD, rifiuti in strada, il sindaco Raggi che risponde, eccetera. C'è stata la adunata degli alpini e ovviamente la adunata degli alpini si lancia un altro dibattito che credo rimarrà 48 ore sui giornali e poi non se ne farà nulla. Il ministro della difesa Pinotti rilancia l'idea di rendere obbligatorio il servizio civile, non militare, ma almeno quello civile. Davanti ai 100.000 alpini che hanno sfilato a Treviso, restituiamo ai giovani un momento unificante. Potranno scegliere loro dove esercitarlo. Segue dibattito oggi sui giornali. È giusto, è sbagliato, è un retaggio del passato, non è una cosa che serve. Non se ne farà nulla, state tranquilli, non se ne farà nulla, ma il dibattito, chi dedica due pagine, chi una e mezza, chi una, c'è. E ritorna con paginate oggi sui giornali. Allora, se vogliamo andare alle cose un po' più concrete, il Messaggero con Umberto Mancini a pagina 11 anticipa il bando per Alitalia. È il documento di 6 pagine messo a punto dal commissario Laghi, uno dei 3 commissari, che oggi, salvo sorprese, dovrebbe ottenere il via libera al ministro dello sviluppo Calenda, per poi essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale entro il 17 maggio. Nel bando c'è scritto nero su bianco che i potenziali investitori devono indicare prioritariamente quale soluzione proporre per risolvere la crisi all'Italia. Ristrutturazione, acquisto dell'azienda nel suo complesso oppure spezzatino. Insomma, un primo interrogativo a cui rispondere per capire l'orientamento del mercato. Entro il 10 giugno, ovvero in tempi rapidissimi, i potenziali investitori dovranno poi manifestare in maniera formale le proprie intenzioni, così da poter avviare rapidamente la seconda fase della procedura. Comunque, tutti i dettagli sul Messaggero. All'Italia, ecco il bando, apertura alle cordate, è pronto il documento di 6 pagine messo a punto dal commissario Laghi e tutte le anticipazioni le trovate sul Messaggero a pagina 11. Vi segnalo per gli esteri la Germania, col trionfo della CDU di Angela Merkel proprio nella roccaforte di Schulz, leader dell'SPD, dei socialisti, che quindi sono stati sconfitti. Lui non lascia, dice cambierò, ma certo tutti raccontano che in Germania si va verso il quarto mandato di Angela Merkel dopo questa vittoria nel Nordrhein-Westfalia, il land più popoloso, e quindi ve lo segnalo, così come vi segnalo articoli sulla Cina, articoli insomma di esteri interessanti, soprattutto sulla Cina, legato anche alla Corea del Nord. Giustamente il Corriere della Sera, come tutti i giornali, si concentra sull'ultimo missile lanciato da Kim Jong-un, leader della Nord Corea. Guido Limpio e Guido Santevecchi sul Corriere raccontano il linguaggio cifrato dei missili di Kim. Che cosa significano i suoi esperimenti, spesso misteriosi? Qual è l'arsenale militare vero della Corea del Nord? Quali sono i segnali in codice del dittatore per parlare, ovviamente tra virgolette, ai paesi amici da una parte e ai paesi rivali, vale a dire alla Cina e agli Stati Uniti? Per esempio, tutti hanno fatto notare, non è un caso, che l'ultimo missile è stato lanciato proprio mentre la Cina, con il leader Xi Jinping, stava aprendo i lavori al forum di Pechino per lanciare la nuova via della seta, cioè un mega investimento economico che potrebbe portare a trilioni di dollari entro il 2026 di investimenti per nuove rotte economiche tra Oriente e Occidente. Guarda caso, proprio in quel momento Kim Jong-un lancia il missile, mettendo seriamente anche in imbarazzo l'alleato politico cinese. Comunque questo lo trovate sul Corriere della Sera, pagina 5-6. Dai, siamo all'ultimo articolo, l'articolo da carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Io lo sapevo. Lo sapevo che adesso iniziano gli articoli su Brigitte. Come era vestita Brigitte? Era vestita con un vestito carta da zucchero. Brigitte ovviamente è la moglie di Macron. Era vestita in pratica un po' come Melania Trump al giorno dell'insediamento alla Casa Bianca. Ed ecco che allora Daniela Monti sul Corriere della Sera per mezza pagina si chiede: perché Brigitte si è vestita come Melania? Ma chi se ne frega!